dicendo che la nostra percezione sensoriale e anche le nostre emozioni, ovviamente, sono influenzate dai presupposti, che sono un po' le radici della nostra pianta di pensiero, del nostro albero del pensiero. Sono dei presupposti, dei concetti, delle parole che usiamo. Ecco. Cadiamo spesso nell'illusione di dare credito alle nostre sensazioni e emozioni come fossero prove di realtà. Ho già dato prima l'esempio del serpente e della corda e di come le emozioni, che sono reali, sono dei movimenti proprio di materia all'interno del corpo, le famose molecole di emozioni, sono reali, ma non per questo rispecchiano la realtà. Ecco perché le nostre emozioni sono perfettamente coerenti col tipo di percezione che abbiamo. Ecco perché nel momento in cui, anziché stare nella realtà del qui ed ora e del flusso, e quindi se io interagisco con te, anziché avere un'idea precostituita a cui mi riferisco, Barbara, sei una persona fatta così, con una ben chiara identità, sto nel presente, e ci sono tutti i movimenti che fai, i modi come ascolti, i modi come muovi il corpo, tutte queste cose che sono in continuo divenire, in flusso. Nel momento in cui ho delle idee preconcette, io esco dal flusso. E qui arriviamo al punto centrale. Cosa succede, appunto, quando noi separiamo noi stessi dagli altri? La prima, appunto, prima cosa che viene subito, una delle prime cose, è il confronto. Sono meglio, sono peggio, lui è più grande, io più piccolo, è tutta una serie di confronti a cui seguono dei giudizi. E giudizi che sono delle etichette che noi mettiamo sulle persone. Dopo un po' non ci rapportiamo più con delle persone, ci rapportiamo con dei giudizi, cioè con dei concetti che abbiamo costruito noi sulla base di aspetti, a volte addirittura marginalmente irrisori, di una persona. Ok? Cosa succede quindi quando noi ci troviamo di fronte, siamo circondati non da persone che vibrano insieme a noi, con le quali abbiamo delle relazioni armoniche, empatiche, per cui ci viene naturale, se è così, che il mio pensiero viene continuato dal tuo, che continua, e poi il mio continua, insomma, c'è un continuo flusso, certo. Non si può dire che io penso, ma c'è il pensiero tra noi che circola. Ecco, è questo un modo di pensare del metamodello 1. 2. Ma cominciamo a dire io, tu, le mie idee, le tue, i miei presupposti, i tuoi, i miei bisogni, i tuoi bisogni, i miei desideri, i tuoi desideri. Nelle coppie, quando si comincia a etichettare e giudicare, le due persone diventano due sistemi di desideri in conflitto, perenne. Due sistemi di desideri, due sistemi di bisogni che sono continuamente in confronto, giudizio reciproco, e lotta per che cosa? Per avere la supremazia, per avere la soddisfazione dei propri desideri a scapito di quelli dell'altro. E quindi che cosa nasce dal fatto di vedere la realtà per oggetti separati? Il confronto, il giudizio, come abbiamo detto, ma naturalmente nasce la pretesa, la lamentela, il disprezzo e tutti gli inquinanti della mente. E siccome siamo a disagio con le altre persone, non siamo totalmente noi stessi, perché abbiamo deformato tutta la realtà, proprio perché non ci può essere amore, che è la forma di relazione vera tra le persone e col mondo, al posto dell'amore cominciamo a praticare il bisogno del controllo e quindi la ricerca del potere. Ecco perché Panica dice: ci sono due grandi forze, la forza dell'amore è la forza del potere. Queste sono le due forze che dominano gli uomini. E in questo contesto noi possiamo dire: la forza dell'amore nasce quando abbiamo una visione non duale. La forza del potere nasce quando abbiamo una visione duale. E non c'è scampo. Ok? E adesso introduciamo un altro tema. La separazione porta la paura dell'altro. Perché l'altro è qualcosa di fuori di me, che ha bisogni diversi, idee diverse, e può minacciare il mio territorio psicologico. Certo. Ecco, i gatti, i leoni, i vari animali difendono il loro territorio, anche noi lo facciamo, non solo fisicamente, ma soprattutto il nostro territorio, a cui teniamo di più, è il nostro territorio psicologico. Quindi se tu contraddici una mia idea, io la sento come un'invasione di campo e io devo reagire. Se fossi un gatto, userei le unghie, ti inseguirei. Se sono un uomo, mi limito a cercare di darti torto, squalificarti, darti addosso. E lo stesso fai te. E questo è il nostro rapporto. È come quello che ha la nostra gattina con i gatti che passano sul nostro giardino. Cerca di mandarli via se ci riesce. Di solito ce la fa, per il momento è contenta. Allora, dicevo che di fronte alla separazione la prima cosa che nasce, quindi di fondo, è la paura dell'estraneo, la paura del diverso. Sì, di quello che non si conosce, perché si pensa di non conoscerlo, certo. Certo, ma perché di fatto non lo si conosce. Cioè, se noi siamo In separati, quella. noi stiamo osservando il mondo dalla piccola mente, poi lo parleremo più a fondo, dalla piccola mente noi non siamo in grado di conoscere. Deformiamo tutto, quindi abbiamo giustamente paura perché non capiamo. Ecco perché un marito e una moglie che si sono sposati perché si amano, dopo un pochino si sentono come degli estranei, si sentono dei nemici in casa. Non si percepiscono, non capiscono più niente l'uno dell'altro. Quindi potremmo dire che una relazione tra due persone che sono nella piccola mente diventa una piccola relazione destinata poi a far soffrire entrambi e magari a finire. Se poi le menti sono piccolissime, la relazione è davvero piccolissima e miserrima.